milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro. È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguarnita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. 6 minuti, la Juventus è già sotto di un gol. Rizzitelli da solo brucia Peruzzi in uscita e il Torino passa in vantaggio. La Juventus si scuote e abbozza una reazione che non diventa mai troppo convincente, ma è utile per tenere in apprensione Granata. Il più deciso, Ravanelli, recuperato dell'ultimo minuto. Il pareggio temporaneo al 23esimo, punizione di Baggio e tocco maldestro di Maltagliati che sorprende Pastine. La squadra di Lippi ha un moto d'orgoglio e sulle ali del pari ritrovato tenta addirittura il sorpasso, animata dal solito trio d'attacco. Ma l'occasione limpida è ancora per il Torino, a fondo di Anglomà e cross preciso per Rizzitelli ancora solo in area. Buongiorno a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Beh, c'è un po' di differenza tra le telecronache che abbiamo sentito nella sigla e questo racconto dell'ultimo derby vinto dal Torino, 1995, qualche annetto è passato. Chi fu il man of the match? Lo sentiamo, Rizzitelli. Credo che la squadra così in questo momento c'ha la gioia, come dicevo altri colleghi, c'ha la gioia di giocare a calcio, di non aver paura di nessuno, e lo sta dimostrando partita dopo partita. Credo che sia la forza del Toro in questo momento. E chi c'era in panchina quel giorno? Nedo Sonetti. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. Ho sentito la voce di Rizzitelli e il suo racconto di quel famoso Juventus Torino, ed è un'immagine molto bella, insomma, no? Sì. Fa venire in mente tanti ricordi stupendi. Quali? Ricordi stupendi della vittoria, delle due vittorie nei confronti della Juventus nello stesso anno. E soprattutto la seconda, quando vincemmo 2-1. Sì, 95, qualche annetto è passato. Io domani farò il tifo per Ventura, ma per il campionato, insomma. Sì, beh, passati tanti anni, però certamente l'impressione di quella stagione rimane indelebile, perlomeno nei nostri pensieri. Poi non credo che a Lippi e alla squadra della Juventus di quell'epoca gli rimanga molto impresso, insomma, non lo so. A noi certamente è rimasto molto impresso, insomma, perché noi poi, fra l'altro, al di là di Rizzitelli, avevamo dei giocatori come Pelé, come Anglomà, sì, e come tanti altri che hanno fatto una bella, diciamo sì, piccola storia di quel Torino. Senta Sonetti, com'è il derby di Torino? Perché quello di Roma lo sappiamo, esasperato, quello di Genova molto bello, molto acceso, quello di Milano è come andare alla Scala quando ci sono i grandi tenori. Quello di Torino com'è? Sì, ma vede, per esempio il derby di Milano, Milan-Inter, si incontrano sempre due squadre che lottano per lo scudetto, di solito, insomma, no? Devo dire anche di Roma-Lazio. Forse quello che più si avvicina è la Sampdoria-Genova, dove praticamente ci sono due squadre che lottano sempre, o quasi sempre perlomeno, per degli obiettivi non molto elevati, se non si parla di salvezza. Insomma. Noi era una cosa diversa, perché la Juventus stava lottando per lo scudetto e infatti vinse lo scudetto, e noi eravamo una squadra che ci dovevamo salvare bene, dovevamo stare tranquilli in una posizione intermedia della classifica. Difficile quest'anno togliere lo scudetto alla Juventus. Ma credo che sì, insomma, la Juventus credo che abbia il contesto migliore nei confronti delle altre squadre, anche se l'altro giorno ha perso contro il Milan, però ritengo che abbia la struttura proprio della squadra che sia superiore all'altra, un gradino superiore all'altro. Sì, il Toro di quest'anno invece non sta andando male, è una squadra strana, una squadra strana che va meglio in trasferta che in casa, che fa fatica a segnare, però non è una brutta squadra. No, non è una brutta squadra, anzi devo dire che io naturalmente nella partita farò il tifo per il Torino, però devo dire che insomma, anche il Torino deve stare attento, perché nei confronti della terz'ultima non è che ci sia un oceano di mezzo, no. Ci sono 4 punti mi sembra, e quindi la situazione deve stare molto attenta, anche se la squadra nel suo contesto la ritengo buona, ecco. Sì, le chiedo ancora questo, mister, cosa ne pensa del caso Snyder esploso in settimana? Ma il caso Snyder è esploso in una maniera direi fragorosa, e d'altra parte lì c'è di mezzo la società, che si è resa conto, forse, dico forse, si è resa conto che può fare a meno anche di Snyder, perché se no altrimenti non ci sarebbe questo tipo di problematica. Hanno quasi sempre vinto fino a questo momento senza l'olandese, e adesso l'inserimento di questa squadra qui, di questo giocatore qua, siccome ha personalità ed è un grande giocatore, potrebbe diciamo così alterare certi equilibri che invece ci sono adesso in questo momento. Grazie mister, grazie. Va bene, grazie, no? Un abbraccio. Grazie, Nedo Sonetti. Forza Torino, Forza Torino, quantomeno per domenica, come farà la mezza Italia che non tifa Juventus. Voi che ne dite? 800240024, perché come sempre siete tutti convocati. Poi parleremo, come ogni venerdì, ovviamente anche di basket e di quello che hanno buttato via, quantomeno Milano, le nostre due squadre di Eurolega. Parleremo di NBA, parleremo di Catania-Milan, se volete, con l'ennesima visita pontificia di Berlusconi a Milanello a dare la carica ai suoi. Il Milan prova a rialzare la testa, il Sharawi ci mette la cresta, la taglio in caso di scudetto. Io credo che il suo barbiere possa stare discretamente tranquillo. Voglio farvi sentire invece 800 24 00 24, mentre la Juventus oggi resta in silenzio. Poi sentiremo delle voci, ma interviste esclusive di Sky, di Marchisio, ma ufficialmente la Juventus oggi non parla di nuovo, silenzio stampa prepartita per i bianconeri. Volevo farvi sentire una cosa. Non è un calciatore, non lo è mai stato, è un personaggio molto noto, tifa per il Torino, si chiama Pippo Baudo, per la Juve, scusate, tifa per la Juve naturalmente, si chiama Pippo Baudo e dice delle cose molto dure nei confronti dell'allenatore della sua squadra. Comunque, insomma, secondo me alla lunga sta nuocendo alla Juve la vicenda Conte. Io non ho apprezzato l'atteggiamento di Conte e non ho giustificato l'atteggiamento di Agnelli, che se praticamente si è addossato una responsabilità di fatti nei quali la Juve non c'entra niente, ma che riguardano Conte nel suo esercizio di allenatore con precedenti squadre. Adesso noi sappiamo che c'è un'inchiesta sulla partita Bari-Salernitana in cui ci sono dei comportamenti di omissione, denuncia da parte di Conte molto gravi. Conte sostiene sempre: dirò la mia verità, ma che la dica subito, perché questo essere in panchina a metà, questo stare dietro i vetri, non crea sicuramente armonia anche presso la squadra. Ditemi voi che battute, questa è la pensione di Pippo Baudo, ditemi voi che battute ho fatto su Berlusconi. Certo che non cambia mai, anche lei se non fa battute su Berlusconi non è contento. Ditemi voi che battute ho fatto su Berlusconi. Berlusconi è tutti i giorni a Milanello in questo periodo, ha meno da fare evidentemente su altri fronti, tiene molto alla squadra, e ieri abbiamo sentito il Sharawi dire che è il nostro doping emotivo, quindi Berlusconi vicinissimo al Milan. Poco vi faccio sentire anche Ventura cosa ha detto oggi in conferenza stampa. Andrea, provincia di Ancona, poi Fabio dalla provincia di Massa. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Chi vince il derby? Ah, io spero la Juve. Juventina. Sì, esattamente. Volevo condividere una riflessione sull'aspetto psicologico e sull'autostima dei giocatori della Juve, perché io ho come l'impressione che ci sia uno spartiacque importante la prossima settimana con la partita con lo Shakhtar Donetsk. Sì. Perché ritengo che i giocatori siano partiti già a fine estate pensando di potersi qualificare, ragionando forse in maniera superficiale su un girone semplice che invece non si è rivelato tale. No, è molto difficile, ma basta un pari, e io credo che quel pari arriverà. Sarà una partita da giocare con grande attenzione, anche perché lo Shakhtar Donetsk è una squadra forte, che tiene al primo posto, che penso giocherà una partita seria, però insomma, dopo aver pareggiato a Stamford Bridge, asfaltato il Chelsea, credo che la Juventus meriti la qualificazione, mi auguro che vada a prenderla lassù. Sì, però la mia considerazione era questa: la squadra juventina è abituata a giocare ad alti ritmi e ad attaccare molto, e quindi forse non è esattamente la partita migliore, perché se uno punta, come posso dire, a portare via un punto, sì, dovrebbe stare un po' più attenta a Tio Guardinga. Sì, però l'importante è che non giochi come ha giocato a San Siro, cioè sotto ritmo, facendo sottotono e sotto ritmo, facendo sterile possesso palla, eccetera, eccetera. La Juventus è una squadra che ha bisogno di furia agonistica. Io credo che in quella partita La troverà per forza. Non credo che vada a Donetsk per aggredire lo Shakhtar, però credo che andrà a Donetsk con grande concentrazione e con il sangue agli occhi, come la Juventus deve essere e vivere per essere questo tipo di Juventus. Grazie Andrea. Fabio, provincia di Massa. Buongiorno a tutti. Innanzitutto i complimenti per la trasmissione, mi piace perché, per quanto riguarda almeno la conduzione, si parla di sport in maniera pacata, con la consapevolezza che si parla fondamentalmente di sport. Ma sì, certo. Mica stiamo parlando di vicende epocali. Bravissimo. Abbiamo molti altri problemi più seri. Questo è deve essere un divertimento. Assolutamente. Infatti è per quello che ascolto con piacere sempre la vostra trasmissione. Detto questo, volevo parlare un attimino della partita di ieri sera. Mi sono fatto male, ho voluto vederla tutta fino alla fine, ma già all'inizio del quarto si capiva come sarebbe finita quella partita. Stiamo parlando di basket, naturalmente, giusto per precisare, stiamo parlando di Olimpia, se non sbaglio. Sì, l'Olimpia ieri sera, già non ho precisato, ma proprio di quello. Io forse mi ero abituato bene perché ho seguito l'Olimpia dei tempi di D'Antoni, e voglio dire che a questo punto credo che bisogna cambiare qualcosa. Cioè, sono stufo di vedere giocatori come Cook, come Fozis e altri che magari nel corso della partita fanno belle giocate, bei numeri, ma poi quando la palla comincia realmente a scottare, basta, spariscono. Io ho visto anche quella palla proprio alla fine buttata via da Borussis. Ma è possibile che una squadra come l'Olimpia non riesca a trovare un'entità di gioco, un'identità di gioco, un qualche cosa? Cioè, lo stesso Scariolo a questo punto comincia a metterlo io in discussione. Non riesca a trovare una faccia e un'anima, lei dice. Non lo so, guardi, lo chiediamo a Dan Peterson. Ciao, coach. Coach? Eccomi qua. Ci sono, sei in galleria andando verso Siena, quindi spero che mi sentiate, ok? Quindi magari la voce viene e va, tra poco usciremo da questa galleria e saremo super collegati. Saremo super collegati, però intanto che... Pronto? Pronto? Sì, ti sento, coach, anche se sei in galleria. Qual è il problema? Io ti sento. Ieri sera hai commentato questa dannata sconfitta dell'Emporio Armani, che insomma l'ultima palla è finita nelle mani giuste. Il problema è che non si doveva, con 17 punti di vantaggio, arrivare a giocarsi quel tiro di Basile. Non so se sei uscito dalla galleria. No, coach Peterson non è ancora uscito dalla galleria. Beh, sintetizzo io: Armani che era sopra i 17 punti, tra l'altro ieri è stata una giornata importante anche per Sergio Scariolo, che è stato nostro ospite, che ha ufficializzato l'addio alla nazionale spagnola, una nazionale spagnola che ha reso grande, con cui ha vinto due titoli europei, con cui ha vinto una medaglia d'argento olimpica, e quindi credo ci tenesse particolarmente a vincere lì in Spagna. Sopra di 17, partita in mano all'Emporio Armani, Emporio Armani che lascia che Vitoria recuperi la partita, si arriva agli ultimi tiri, l'ultimo pallone è nelle mani giuste, quelle di Basile, però il tiro è sbagliato. Io credo che non si dovesse arrivare a quel punto. Coach, sei uscito dalla galleria? Cioè, esatto, scusatemi ragazzi, ok, sono proprio fra Bologna e Firenze, figurati, adesso ci siamo messi qui a fianco dell'autostrada, quindi sì. Ho sentito il commento, cioè, allora, sulla partita di ieri ovviamente sapevamo tutti il posto in palio, vincevano la partita, era fatto qualificato per top 16 di Eurolega, adesso è tutto in alto mare, tanto per dire, ok? Quindi è una sconfitta veramente notevole. E la partita ha avuto due facce. Primo tempo Milano 42 punti, secondo tempo 20. Primo tempo concedono un rimbalzo offensivo a Vittoria, secondo tempo 15. Tutto a rovescio, tanto per dire. Primo tempo in due quarti tre palle perse, prime cinque azioni del terzo quarto quattro palle perse, quindi veramente è stato un rovescio di fronte a una pausa veramente notevole che è all'inizio della partita. E le responsabilità, come ha detto tutti, sono proprio di loro e dei giocatori che hanno rinunciato ai tiri, che hanno sbagliato i tiri, forzato le azioni e poi mancato taglio fuori. Quindi è inutile nascondersi qui. La partita è stata vinta e poi persa proprio per gli stessi motivi. Sì, coach, Milano ce l'ha l'anima? Well, questo stanno chiedendo tutti, ok? E quindi se ce l'hanno lo devono dimostrare e avranno occasione a partire da dopodomani in casa con Sassari. Vediamo, ok, cosa fanno contro Sassari e vediamo cosa fanno contro Zalgiris. Bella squadra allenata da Juan Plaza, che secondo me è un signor allenatore. E ho visto segni di questo, Carlo, nelle partite precedenti, però è chiaro che adesso giocano le partite che valgono la vita cestistica, che lo devono tirare fuori l'anima con le due mani. Senti, cosa, c'è stato un sorpasso così ipotetico, perché tutti dicevano all'inizio della stagione Milano favorita per il titolo, Siena che si deve ricostruire, in questo momento la favorita ovviamente non per l'Eurolega dove giocherà stasera, per il passaggio del turno certamente speriamo che Siena lo passi, anche perché Cantù si è complicata la vita perdendo in Russia sul campo del Kim, che è quasi eliminata, rischia di essere un dramma questo giro per le nostre in Eurolega. Siena dovrebbe qualificarsi, però mi sono fatto l'idea che Siena sia la favorita per il titolo anche quest'anno. Well, Siena è la squadra più in forma in questo momento, che stanno giocando bene, e la cosa che crescono, fanno veramente dei progressi. Esatto. Stanno migliorando e Cantù e Milano ovviamente in difficoltà adesso, tutte le due squadre devono dimostrare la stessa cosa. Cioè Siena mette un mattone sopra l'altro ogni settimana, bisogna, e così si fa. L'idea di una squadra, di tutte le cose, è di migliorare dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno, deve veramente dimostrare progressi. Questa ovviamente è una cosa che devono fare assolutamente tutte le due, sia Milano che Cantù. Cantù forse un pochettino meglio di Milano in classifica, ovviamente in situazione Eurolega per mille sfortuni, ok? Poi ieri vedendo Kim che prende la partita in mano, forse anche un po' umanamente demoralizzata per questo, però Cantù rimane per me una squadra solida con del potenziale, anche Milano ha questo potenziale. Sono due squadre che devono crescere e che danno piccoli segnali di crescita, secondo me. La cosa qui adesso, quasi siamo state arrestate perché eravamo fermate, adesso entriamo in un altro tunnel, quindi perdonatemi se cade qualcosa. Comunque è chiaro che Milano ha fatto segni di progresso, soprattutto in difesa, e dico che la difesa, ok, 64 punti per Kai Lavorati nei primi 20 minuti, però il basket è fatto di equilibrio, attacco e difesa, e finora hanno fatto tutto attacco, poco difesa. Adesso hanno provato a girare la cosa. Secondo me la base è la difesa, e io credo che la strada possa essere quella giusta. Coach, ti lascio alle gallerie al viaggio verso Siena. Ti saluto. Ciao. Ragazzi, gli sportivi, ciao a tutti. Ciao, coach. Fabio, proprio da Siena, è già arrivato, ha già superato le gallerie. 800-24-00-24, convocati tutti. Vi voglio sentire le vostre voci. Fabio. Grazie, complimenti, perché è un piacere avere un giornalista come lei, capace così di basket. Grazie. È un piacere. E una battuta anche di una e mezza, ovvero l'anno scorso avevamo, come dire, la remora che Siena è troppo forte, ma così d'altra parte è un problema. Ora Siena quest'anno abbiamo fatto di tutto per fare una squadra, direi, da senese imbarazzante. Perché? Per imbarazzante, per la qualità rispetto a quello che avevamo goduto. Beh, non direi, è una squadra diversa, che è arrivata ad una fine fisiologica, battuta, no? La mia partita nel senso imbarazzante rispetto al passato, nonostante questo canto a Milano. Non mi, mi sembra tutto, cioè, ma mi perdoni però Fabio, ma se Siena è imbarazzante le altre cosa sono? No, ma questo Dio, noi ce l'abbiamo messa tutta per farla peggiore di così, ma se gli altri non ti danno una mossa, c'è tocca vincere lo scudetto un'altra volta. Non so, ma noi ne faremmo a meno, ma alla fine poi lo prendiamo, insomma, ecco. Tutto qua, una battuta e complimenti. Grazie Fabio, ma no, io credo che invece Siena sia stata comunque costruita in, in modo intelligente, come sempre. Non condivido il fatto, era chiaro che era in tono scherzoso, squadra imbarazzante, tutt'altro che imbarazzante. Siena è semplicemente arrivata a fine ciclo con l'ennesimo scudetto in mano e poi ha detto addio per i motivi più diversi a Bomekaleb, a un Lavrinovic che comunque nelle ultime stagioni aveva avuto più problemi che canestri, ha detto addio a Stonruk che ha deciso di ritirarsi a vita privata, ed è giusto, le squadre finiscono, i cicli finiscono e Siena è stata comunque brava a reinventarsi. Io continuo a pensare che una valutazione vera su, su Siena, che comunque rispetto a Milano e rispetto anche a Cantù sta crescendo in maniera progressiva e molto veloce, forse più del previsto, credo che un giudizio vero su Siena si possa dare solo verso gennaio-febbraio. Quello che credo è che ci sia già stato questo sorpasso in fieri nella, così, nel ranking dei, dei pronostici di Siena su Milano come favorita per il titolo. 800 24 00 24, naturalmente siete convocati, naturalmente parleremo ancora di basket, naturalmente torneremo sul, sull'argomento calcio, naturalmente vi aspetto dopo la borsa. Presidente, assolutamente convocato. Io non ho apprezzato l'atteggiamento di Conte. Adesso noi sappiamo che c'è un'inchiesta sulla partita per Bari Salernitana in cui ci sono dei comportamenti di omissione, denuncia da parte di Conte molto gravi. Conte sostiene sempre: dirò la mia verità, ma che la dica subito. Duro Pippo Baudo nei confronti del suo allenatore, direte che c'entra Pippo Baudo, parla da tifoso ed esprime un pensiero anche legittimo. Ragazzi, fate i bravi con gli sms, non siate scurrili, a casa mia quando finisce un ciclo poi si tromba. Su 800 24 00 24 invece voglio sentire le vostre voci, sempre, ogni giorno. Voglio che partecipiate, che andiate in campo, siete sempre e tutti convocati. Intanto vi faccio sentire invece voce di oggi, prima quelle del passato sul derby. La Juventus sta zitta, niente conferenza stampa, invece conferenza stampa piuttosto divertente di Giampiero Ventura. Proviamo a sentire. Ma è più Conte che si è ispirato a te o più Ventura che bella si questa, è questa è una domanda interessante. Che... Perché ah, no, non diciamo... c'è chi racconta che in no. privato voi raccontiate cose simpaticamente diverse. Penso che sia una sfida nella sfida per voi. Ma, allenatori. Allora, in privato io non parlo di Conte, se mi permetti, a cui gli voglio bene, mi è un amico e... ma non parlo di Conte, io non credo che Conte in privato parli di me, però vuol dire, non, queste sono il solito chiacchiericcio da bar che lascia il tempo che trova. Conte mi sembra che stia dimostrando in Italia, gli auguro di poterlo dimostrare anche in Europa, che sia una delle squadre più organizzate, una squadra che sa sempre cosa fare, come farlo, e questo... non c'entra niente Ventura, c'entra solo esclusivamente Conte, quindi ci mancherebbe altro. Ma poi all'improvviso, all'improvviso il telefono di Ventura si mette a suonare. Il valore dei singoli, la qualità dei singoli poi incide moltissimo, no? No, non credo che sia la più non credo che sia la più forte. Ho incontrato, chiedo scusa, ma posso Antonio, scusa, puoi richiamare dopo, perché non è che possiamo stare qui adesso, sono in conferenza stampa. L'altra volta era Ferrara, questa volta Antonio Conte. Quindi, tanto ci vediamo domani, forse. Forse. Questa è meravigliosa, finisce dritta tra le nostre sigle, eh? Cosa dici, Franco Piantanida? Giancarlo, provincia, Giancarlo D'Alessandria e Davide da Biella, stiamo in Piemonte. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Un parallelismo rapido tra la prestazione di Olimpia ieri e il Paris Saint-Germain, quindi parallelismo col calcio. Sì. Due grandi squadre sulla carta all'inizio della stagione, sì, che avrebbero dovuto schiacciare. C'è molta carta, eh? C'è molta carta. Ecco, e che poi al lato pratico stanno soffrendo in entrambi gli sport. Mm. È corretto dire, anche un po' provocatoriamente, che non si può fare le squadre con le figurine, sì, e partire con il senza la giusta umiltà ad affrontare campionati importanti? È corretto dire, mio caro, che le squadre vanno fatte con il cervello e vanno fatte con la competenza. C'è una differenza essenziale. Il Paris Saint-Germain ha passato piuttosto facilmente il turno in Champions League. Io credo che l'Empoli Armani sia quasi fuori, questa è una sconfitta pesante per una squadra come Milano, sia quasi fuori per l'ennesima volta dopo il primo giro di Eurolega, anche se Basile dice siamo in crescita, sono ottimista, arriveremo alle top 16. Questo è tutto da vedere, da dimostrare, da conquistare e sarà molto difficile. Il Paris Saint-Germain è partito molto male in campionato. Io credo che vincerà però alla fine questo campionato. Poi è evidente che ha ragione lei, cioè le squadre non si fanno con le figurine, si fanno con la logica. La mia sensazione è che a Milano, a differenza del Paris Saint-Germain, manchi un leader vero, manchi un giocatore che dice ok, momenti difficili, palla a me e so io come gestire la squadra, so io cosa fare. Un gruppo di buoni giocatori, forse di ottimi giocatori, al quale manca una stella emotiva, se mi permettete questa parola. Davide da Biella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, io buongiorno. Volevo parlare di Conte, però se mi permetteva volevo solo farle prima i complimenti personali. Io appartengo a quella metà d'Italia che tifa Juventus, e non ho difficoltà nel riconoscere quando qualche episodio, c'è stato anche recentemente, ci ha favorito, però è innegabile anche quando poi succede qualcosa contro. Allora, credo ieri o l'altro ieri, lei a mio avviso con molta signorilità ha gestito la telefonata di un tifoso, credo milanista, che metteva in dubbio che quello non fosse rigore. No, era rigore. Ma ho apprezzato molto l'ironia con cui rispondeva. La ringrazio, però se uno mi domanda ma lei è sicuro che non era rigore? Sì, sono sicuro che non era rigore, sono ragionevolmente sicuro che non era rigore. Poi, poi per il resto, no, per il resto ha vinto meritatamente il Milan, che ha giocato meglio. Assolutamente, io ritengo che il calcio sia una cosa importantissima, perché ci permette a tutti di parlare di una cosa bella, però deve essere anche qualcosa di divertente, leggero, di leggero, certo, e divertente. Prendersi in giro così non impedisce, per esempio, a me in ufficio di dire che io devo prendere lezioni di geometria riferendomi al gol di Muntari sulle linee, e però i milanisti devono prendere lezioni di anatomia per dire che una ascella non è un braccio. Ma a parte questo, volevo dire questo. Vabbè. Su Conte, secondo me, da juventino dico che è stata una piacevolissima sorpresa. All'inizio non ci credevo molto, e invece ho visto che lui io neanche, e non ho difficoltà a dirlo perché l'ho detto pubblicamente molte volte. Perché oggettivamente lui ha una straordinaria capacità di motivare le persone, che se noi andiamo a vedere l'elenco dei giocatori, soprattutto dell'anno scorso, della Juventus, francamente fino a quando io la sera di maggio mi sono abbracciato con mio figlio per festeggiare l'incredibile successo non ci credevo. Invece oggettivamente lui è sì, però c'è qualcosa, Davide, però c'è qualcosa che va al di là della capacità di motivare. Secondo me Conte è un bravo allenatore che ha saputo costruire anche con intelligenza una squadra che tatticamente funziona, perché sennò finiamo per dire che Conte è soltanto un grande catalizzatore di attenzioni, che Conte è solo un grande leader, che Conte è solo uno che è in grado di tirar fuori le palle ai giocatori. È così, ma non è solo così. Conte è un allenatore che ha fatto uno splendido lavoro anche sul campo e anche dal punto di vista tecnico e tattico con questa Juventus. Quindi Conte grande motivatore sì, ma mi sembra, lo ripetiamo molte volte, ma mi sembra un po' riduttivo. Claudio, Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo chiederle, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiederle che cosa pensa di tutti questi episodi sfavorevoli al cospetto del Toro da inizio anno, vedi Cagliari, vedi Parma, vedi Roma e vedi tante altre cose, cioè cose che si ripetono ormai da sempre. E volevo chiedere un parere, è questione della società che non ha penetrazione nel palazzo oppure c'è qualcos'altro? La seconda domanda le volevo chiedere, mi saprebbe lei dirmi come mai hanno designato Rocchi? Rocchi ce lo ricordiamo perché all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultimo derby assegnò un gol irregolare in netto fuorigioco a Trezeguet. Quindi dovrà in qualche modo riscattarsi o no? Sì, l'ultima cosa che volevo... No, scusi, è troppo bella questa sua risposta. L'ultima cosa che volevo dirle è che io sono un allenatore di base, ho fatto il corso con Antonio Conte 12 anni fa, sì. Era il mio compagno di banco, sì. E volevo dire questo, visto che ci sono così un po' di disquisizioni sul fatto che Conte imiti Ventura o quant'altro, posso assicurare una cosa, i nostri maestri in quel tempo qua a Torino erano Benetti, Moschino e Uzzichini, e ripeto Antonio Conte era il mio compagno di banco, e Ventura già allora era preso come esempio da costoro. Quindi lo stesso Antonio Conte, io mi ricordo che... Quindi abbiamo scoperto l'arcano, è Conte che imita Ventura? Non direi, non vorrei usare questo verbo, direi che si è ispirato a Ventura. Quanto alle Claudio, però quanto agli episodi sfavorevoli che ha avuto il Toro, lasciamo perdere il palazzo, lasciamo perdere le attinenze, i buoni rapporti col palazzo, il Torino ha avuto diversi episodi sfavorevoli. Domani Rocchi deve per forza riscattarsi per quel gol di Trezeguet e quindi io punto su un favore al Torino, naturalmente sto scherzando, è una partita molto difficile da arbitrare, è una partita molto difficile da dirigere. Non so perché sia stato scelto Rocchi, e mi auguro soltanto che da questa partita non escano una volta tanto episodi contestati o contestabili, perché la Juventus è una gigantesca lente di ingrandimento e francamente siamo un po' stufi di commentare episodi favorevoli o contrari alla signora. Giovanna, signora invece, è Giovanna da Milano. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Buongiorno, io sono juventina e ho telefonato perché ho visto la sua provocazione, no, sto parlando ironicamente, di Pippo Baudo e mi sono immaginata... Ah, di Pippo Baudo. Ecco, mi sono immaginate centinaia di juventini che abbiano risposto in modi, insomma, a queste sue frasi da juventino. Ora, io volevo dire la mia. Sono tifosissima, per cui insomma questo va come attenuante o come spiegazione di quello che sto per dire. Pippo Baudo dice che Presidente Agnelli non avrebbe dovuto intervenire. Ecco, io penso invece, visto come poi sono andate con Palazzi, quante altre persone poi ha tirato in mezzo, per questo che doveva essere lo scandalo del secolo del calcio, sì. Immagino questo discorso si è già fatto miliardi di volte, perché io la seguo spesso, sì. Però ecco, poi alla fine si è fermato tutto e uno solo sta pagando, insomma. Tanto vi do una notizia carina, domani c'è un altro derby. Cosa c'è? Tutti convocati? Vabbè, lasciamo stare tutti convocati, l'abbiamo capito. 800 24 00 24, numero verde, tutti convocati sempre. 800 24 00 24. Se anche non ve lo faccio sentire una volta, pazienza. No, domani c'è nel weekend c'è un altro derby, che è quello di Madrid. E Simeone, per caricare la squadra, domani mattina apre alle 10 i cancelli a tutti i tifosi per l'allenamento di rifinitura, quindi dalle 10 domani mattina tutti insieme verso questa partitissima in cui sperano di fare il fiocco al Real Madrid. Intanto io torno a parlare di basket con il mio amico Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buondì. Buondì a lei. La storia della settimana nell'NBA secondo te qual è stata? Direi che la storia è quella di ieri notte, ovvero sia gli Spurs che hanno mandato a casa i Big Three e Danny Green e poi per poco non vincono a Miami, però la storia non è quella, quanto il fatto che Stern abbia detto che prenderà dei provvedimenti che porteranno a delle sanzioni sostanziali per questa azione degli Spurs. Può essere un precedente, c'è San Antonio che fa turnover, Stern che si arrabbia, Popovic che dice con questo tipo di stagione, con l'età dei miei giocatori, l'usura eccetera eccetera, io ho diritto di gestire la squadra come voglio, può creare un precedente? No, crea sicuramente un precedente giurisprudenziale. Sì, giurisprudenziale, anche se a livello giurisprudenziale se l'NBA non fosse un'associazione privatistica dovrebbe spiegare perché, visto che la cosa è già successa più volte, non ha pensato di scrivere la norma a bocce ferme, ma la scrive a bocce in notevole movimento. Però il punto non è quello, il punto secondo me è capire bene le dinamiche di questa cosa. L'NBA è un'associazione privatistica, il suo criterio per prendere delle decisioni è la protezione del business, il business dipende dall'immagine della Lega, l'immagine della Lega è stata indubbiamente lesa da quello che ha fatto San Antonio. Se la vedi dalla parte di San Antonio ti dice: io sono stato solo più onesto intellettualmente, sì, perché se avessi fatto giocare, per farli giocare, diciamo, 12 minuti il primo tempo e 5 il secondo il Victory e Danny Green, probabilmente avremmo perso di 20 e non sarebbero cambiate le cose, anzi noi abbiamo dato forse una partita anche migliore all'NBA. Il problema è che questa era in prime time su TNT, sì, alle 8 di sera Eastern Time, e TNT paghicchia e quindi si porta dietro tutta una serie di cose. Quindi tu immagini sanzioni pecuniarie? Sì, io presumo sanzioni pecuniarie, sì, non ci sono gli estremi per altro, qualcosa di più pesante, però è chiaro che nel momento in cui arriva la sanzione pecuniaria poi nessun altro lo farà più, oppure nessun altro lo farà più in questi termini, lo faranno magari mascherando, perché è chiaro che la prima cosa che viene da dire a noi, tra virgolette, è: ok, allora la prossima volta la Lega punisce anche l'allenatore di Boston, Washington, Charlotte, certo, che nel quarto periodo sotto di 20 o sopra di 20 non fa giocare i suoi, beh, a questo punto non finisce più, questo è un nostro problema, nel senso che noi vogliamo sempre portarla troppo oltre. Loro la vedono sotto un altro punto di vista che secondo me non è pienamente convincente, non pienamente, però è molto coerente con il loro modello. Sì, questo è sicuro. Si sono viste anche botte fuori stagione tra Boston e Brooklyn. E questo, sai, anche per dire quelli che, per andare dietro a quelli che dicono: ma l'NBA, la regular season non conta niente. Se non conta niente, ma ogni tanto uno decide anche di andare a rischiare del suo, perché Rondo che si mette in mezzo tra Humphries e Gerald Wallace, comunque al di là di ogni altra cosa rischia del suo. Boston è in una situazione difficile, è un po' al limite, e lì c'era tutta la frustrazione dell'essere presi a schiaffi, fino a quel punto solo cestisticamente parlando, da Brooklyn, perché la partita è stata abbastanza imbarazzante per Boston. Sì, ci si interroga, noto anche sul destino di Pau Gasol nei Lakers che stanno nascendo. L'altro giorno, chiacchierando e scherzando un po', dicevo: con D'Antoni Pau Gasol può diventare un giocatore perimetrale, può diventare un tiratore da tre punti, può diventare forse un giocatore che esce dall'area, che si allontana dal canestro. Senti, mi perdonerai una piccolissima botta di pubblicità. È uscito l'altro ieri un libro di Ettore Messina, di cui ho avuto l'onore di essere il curatore, che racconta la stagione passata dei Lakers. No? Infatti era nostra intenzione parlarne un giorno con calma, una volta che riusciamo ad agganciare Ettore e te. Perfetto, ed è giusto che ne parli Ettore. Io ti dico solo che un punto iniziale della stagione è, anche se posso dirlo col contributo del predetto Ettore, quando si mettono attorno a un tavolo gli allenatori dei Lakers e dicono: non possiamo giocare in questo tipo di NBA, in questo tipo di pallacanestro, con Bynum e Gasol come se fossero due centri, perché non vogliamo usare il triangolo, giusto o sbagliato che sia. Quindi uno deve fare il 4 e l'altro il 5. A questo punto comincia la trattativa, anche se il termine è infausto in questo paese, per far diventare Gasol un 4. Dopo un mese e mezzo Gasol dichiara al Los Angeles Times: oh, ma questi palloni in post basso quando mi arrivano? Adesso Gasol ha anticipato, dopo un giorno e mezzo della gestione D'Antoni, ha detto: ma allora questi palloni in post basso? però se due allenatori così lontani come Brown ed Antoni arrivano alla stessa conclusione, le conclusioni poi finali tiratele voi. Grazie Flavio. A te. Grazie Flavio, tranquillo. Dunque, chiudiamo la puntata di oggi, la settimana di tutti convocati, con Luigi dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno. Grazie. Luigi. Grazie a voi. Non so se vuole parlare di Gasol o di San Antonio o di NBA o di basket o di derby, mi dica lei. Purtroppo mi tocca tornare all'Olimpia per l'ennesimo travaso di bile di ieri sera. Eccola. Sono un supporter di antico corso dell'Olimpia, sono un coetaneo di Sergio Scariolo e per ciò che mi riguarda Sergio è sicuramente l'uomo giusto al posto giusto, ma io la vedo ancora in un modo un po' antico. Una squadra di basket deve vivere con un play di personalità e con un centro di altrettanta personalità. Questo è un vecchio discorso, playmaker di grande, cioè l'asse, il famoso asse play pivot, playmaker di grande personalità non ce ne sono moltissimi e lei lo sa. È chiaro che tra avere Omar Cook, che è stato tra l'altro il primo giocatore voluto da Sergio Scariolo quando è arrivato all'Olimpia, e avere Spanulis, e avere Diamantidis, e avere, faccio per dire, McCaleb, Jasikevičius ai suoi tempi, avere un playmaker, cioè siamo sempre lì Luigi, a Milano al di là del ruolo specifico manca il leader, manca il giocatore da cui andare quando sei in difficoltà, non trova? Sì, assolutamente così. Bulusis ancora mi convince abbastanza. Io non avrei speso soldi con Hendrix, mi sarei tenuto Mason Rocca e avrei cercato di spendere quei soldi per prendere un play, tenendo anche Omar Cook, ma come secondo. Sì, no? Sì. Discorso che fila, Luigi, discorso che fila. La verità è che comunque a Milano il leader manca ed è un discorso sul quale torneremo, ma non adesso perché dobbiamo andare a casa. Franco Piantelli dà un impegno, autore di questo programma, anche un impegno anche per Filippo Aureggi in regia. Io no, sto qui. Sto qui perché ho da fare in redazione. Beh, ragazzi, ci sentiamo nel weekend con Giovanni Capuano, ci sentiamo lunedì con tutti i convocati. Questa luce sparata, sembra usando.